Sì, ben ritrovati a tutti. Avete notato anche voi, suppongo, come in questi giorni, con tutto il gran parlare che si è fatto, che si fa, della prima finanziaria del centro-sinistra, nel dibattito se non sia più opportuno tagliare o tassare, mettere a posto i conti o incrementare lo sviluppo, far piangere i ricchi o riportare il sorriso sulle labbra dei poveri, nessuno ha avuto modo di occuparsi di quei 1.700 milioni di euro che il documento in questione destina all'acquisto di armi e tecnologia militare. L'unico a scandalizzarsene, a quanto mi risulta, è stato Vauro, in un articoletto su Epolis Milano di martedì scorso. Ma Vauro è un noto esagerato, legato mani e piedi a un pericoloso estremista come Gino Strada, ed Epolis, per quanti auguri di successo gli si possano fare, per ora è un periodico abbastanza sperimentale, a circolazione ancora limitata. I commentatori importanti e i giornali che contano sull'argomento hanno preferito sorvolare. Eppure, in rapporto ai 34 miliardi erotti del totale, quella dei 1.700 milioni è una bella cifretta, specie se si somma i non so quanti miliardi esenti da taglio del bilancio ordinario della difesa e al miliardo supplementare fuori finanziaria che ci costeranno le varie missioni militari in cui le forze armate italiane sono impegnate sull'intero pianeta. L'Italia è un paese pacifico e notoriamente ripudia la guerra anche in forma scritta, ma questo non gli impedisce, quando è necessario, di fare la faccia feroce. Qualcuno naturalmente potrebbe eccepire che quelle missioni sono di pace e che alla difesa della pace e non ad altro servono quelle armi, ma è un argomento francamente che non mi interessa. Lo si ripete da troppo tempo perché lo si possa prendere sul serio. L'idea di pace che sottintende non è tale da interessare, non dico a me, ma a nessuno. A dire per primi che per avere la pace bisognava preparare la guerra furono quegli antichi romani il cui concreto obiettivo era la conquista del mondo. E poco importa, come credo abbia osservato Voltaire, che i loro storici presentassero quelle conquiste in termini di legittima difesa. Era una giustificazione ipocrita e poco credibile. Come può esserlo, per tornare ai giorni nostri, l'attività di un ministro degli esteri che a suo tempo si è conquistato i galloni di statista facendo partecipare il paese ai bombardamenti sulla Serbia? E non si tratta tanto di ipocrisie personali, perché le colpe dei singoli, nel caso, si confondono con quelle di una classe dirigente, per cui la difesa della vita conta soltanto nei termini che definisce il Papa, e che si dimostra incapace di pronunciare in tema di pace e di guerra non tanto una parola di sinistra quanto una parola di semplice buonsenso. Ahimè. E scrive Machiavelli, in quel celebre capitolo in cui tratta dei principati nuovi che si acquistano con l'arme proprie virtuosamente, il sesto del principe, che essendo tale la natura dei popoli per cui è facile persuadere loro una cosa ma è difficile fermarli in quella persuasione, è sempre meglio disporre di un qualche solido argomento coattivo, come dimostra il fatto che, a sua memoria, tutti i profeti armati vinsono e quelli disarmati ruinorno. Rifletteva il segretario fiorentino, oltre che sulla necessità del suo principe ideale, sulle recenti esperienze di Fra Geronimo Savonarola, come lo chiama lui, e a questo punto di vista di solito si riferisce chi rifiuta le prospettive del disarmo e della non violenza, e le relega volentieri nel regno dorato ma remotissimo dell'utopia. Ma l'argomento, se ci si riflette bene, è per così dire a doppia lama, visto che per sua natura prescinde da qualsiasi considerazione di democrazia di rispetto della volontà generale. E poi, se le armi possono servire ai profeti, intendendo per tali coloro che intendono creare in un momento di crisi una realtà politicamente ed eticamente nuova, il che è più o meno la stessa cosa che avrebbe sostenuto Marx 3 secoli dopo parlando della violenza come levatrice della storia, non c'è proprio niente di profetico e di rivoluzionario nell'uso che ne sanno fare i governanti di oggi, nostri e altrui. A meno che si intenda come vocazione etica quella della difesa a oltranza dello status quo, La conservazione, costi quel che costi, della massa di iniquità e di ingiustizia su cui si fonda l'equilibrio internazionale vigente, la sottomissione ai potenti del mondo e la condiscendenza alle loro necessità e strategie. Il che è più o meno quello che si fa in tutte le missioni di pace di cui dianzi. Ad altro non sembra possano servire quei 1.700 milioni di armamenti che peraltro non ci potremmo neanche permettere, e non basterà tutta l'ipocrisia che allignano il governo e nell'opposizione congiunti per farvi sembrare un investimento di pace.